12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Bentrovati, io sono Giovanna e vi do il benvenuto a 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Nella puntata di oggi parleremo del lavoro nel mondo radiofonico, cercando di capire come funziona il lavoro in questo settore e come fare per entrarci a farne parte. E proprio dagli studi radiofonici di Blu Radio Veneto avremo ospite Mirko Cavallin, che ci racconterà la sua esperienza in questo mondo lavorativo, e insieme cercheremo di dare delle informazioni utili per giovani che volessero provare ad intraprendere proprio questo tipo di carriera. Innanzitutto, la prima domanda a cui proveremo a dare risposta è: che cosa vuol dire lavorare in radio? Per i non addetti ai lavori, sicuramente il primo pensiero che si fa è lavorare in radio vuol dire fare lo speaker, il presentatore radiofonico appunto che conduce una trasmissione. Quello a cui non si pensa però è cosa c'è dietro alla figura dello speaker, ovvero tutto il lavoro redazionale e giornalistico che porta poi alla realizzazione della trasmissione radiofonica. Tutto il lavoro di ricerca e di studio che sicuramente vede impegnato il presentatore nella preparazione delle singole puntate, ma che coinvolge altre figure. Abbiamo cercato quindi di fare un po' un elenco delle professioni che sono impegnate nella realizzazione di un programma radiofonico e abbiamo individuato l'editore, lo station manager, il direttore marketing, l'agente marketing, il direttore musicale, il direttore programmi, il capo redattore, il giornalista radiofonico, lo speaker radiofonico, il tecnico di diretta, il tecnico di produzione, web designer e infine lo staff della segreteria che ovviamente si occupa di telefonate, fax, insomma tutto il lavoro segretariale d'ufficio. 12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. E dopo aver fatto questa breve indagine sulle figure professionali che possono lavorare in una radio, ci addentriamo nel tema della nostra puntata dando il benvenuto al nostro ospite, voce di Blu Radio Veneto, Mirko Cavallin. Ciao Giovanna, è strano perché io ho dato la linea a te prima, adesso tu mi... sono qui insomma, eccomi. Esattamente, e per una volta stai dall'altra parte del microfono, diciamo così. Come ospite infatti, come è un ospite. Po' strano, è un po' che non mi succedeva. Allora Mirko, tutti gli ascoltatori di Blu Radio Veneto ti sentono ogni giorno nel tuo programma, ma vorremmo capire qual è esattamente il tuo lavoro dietro il microfono. È quello a cui molti non pensano, perché uno pensa che lavora solamente nel momento in cui parla. In realtà, per arrivare a questo punto, c'è tutto il periodo della preparazione che non si sente, però è molto impegnativo. Faccio un esempio: per il programma Primo Piano o per Francesco Blumattino sono 2 ore a testa, magari si può lavorare in alcuni casi anche un'intera giornata per arrivare a raccogliere le interviste, a raccogliere le informazioni, a preparare i notiziari di cui parleremo dopo. Insomma, il lavoro di preparazione è lungo, insomma, è come quando si costruisce una macchina, non è che la macchina arriva, ci sono c'è tutta una fase di preparazione che alla fine chi ascolta ha solo il prodotto finito e completo, ma prima c'è ovviamente c'è anche la capacità di improvvisazione a volte, se necessario per la diretta. In altri casi invece c'è molto lavoro dietro. Assolutamente, no? Infatti proprio gli ascoltatori appunto poi sentono il programma in onda, però appunto magari uno non immagina tutto il lavoro redazionale, appunto di ricerca, che ci può essere dietro. Mirko, qual è stato il tuo percorso formativo e professionale che ti ha portato a Blu Radio Veneto? Il tutto nasce credo intorno agli anni, i primi anni 80, facevo le medie. Addirittura, quindi proprio... Sì, no, nel senso che poi è una genesi molto lunga. Ai tempi delle radio libere, delle prime radio libere, c'era un mio cugino che ne aveva impiantata una che trasmetteva dalla cucina di casa. Erano tempi molto pionieristici e ero rimasto affascinato, tanto che spesso andavo lì per capire come funzionava. C'erano i nastri che giravano all'epoca, insomma era la tecnologia era un po' complessa, adesso ci aiuta molto. però all'epoca era davvero eroico riuscire a trasmettere con l'antenna sopra il tetto di casa, e da allora mi è rimasto questo pallino. Poi via via col passare del tempo uno acquisisce, riesce a entrare nei canali nel posto giusto al momento giusto, e poi a perfezionarsi di giorno in giorno, cioè la formazione non finisce mai, è continua. Chiaro che poi più avanti si va, insomma, si spera di migliorare e non di regredire. Ecco, prima di continuare ad addentrarci nel tema della nostra puntata e quindi capire insieme a te quali sono i canali proprio di cui accennavi prima, attraverso cui un giovane può accedere a questo settore lavorativo, ci fermiamo per un breve intervallo musicale e ci ascoltiamo il pezzo Casa Mia di Bruno Sponchia. La mia casa è un profumo, un dipinto autunnale, sul soffitto e sui muri un dolce suono invernale. Mi ha visto piangere affranto, mi ha visto mentire, ha visto tutti i miei amori venire dentro e poi scomparire. La mia casa è una coperta tra il cielo e la terra, la mia casa è quel posto dove anche il silenzio mi parla. Dove non c'è una persona che non amo davvero, e il rumore del giorno è come un cielo sereno. L'unico posto davvero, davvero mio sulla terra, dove non sempre c'è pace, ma non ho mai visto una guerra. E non serve apparire, e non serve sembrare, a volte davvero non serve nemmeno parlare. Casa mia è una meta quando sono lontano, casa mia è una fanciulla che mi prende per mano, fatta di vino e risate, di stufalegna e caffè, di baruffe e cazzate, fatta di come e perché, di padre e di madre, di sorelle e cognati, di partenze e ritorni a piedi sporchi e bagnati. All'improvviso, in una calda mattina, di una canzone che di notte sto scrivendo in cucina, poi gli sbuffi di fumo e il mangiare di ieri, ma grazie a Dio tutto il mondo è rimasto da fuori, e gli amici che arrivano staranno lì giù a sedere, senza né soldi o domande, avranno presto qualcosa da bere. 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Bentornati a 12 minuti, stiamo parlando del lavoro nel mondo radiofonico e abbiamo ospite qui con noi Mirko Cavallin, voce di Blu Radio Veneto. Nella prima parte di questa puntata abbiamo visto un po' quali sono le varie figure professionali che possono essere impegnate in una produzione radiofonica e come si possono poi anche ricoprire magari contemporaneamente diversi ruoli. Ora proviamo a capire come un giovane possa accedere e muovere i primi passi appunto in questo settore lavorativo. Mirko, ci puoi raccontare come tu sei entrato nel mondo radiofonico, insomma un po' i tuoi esordi? Allora, dicevo prima di questa esperienza, no, da dodicenne con la radio di mio cugino, che poi è morta, è durata qualche anno, ma succedeva abitualmente, per cui quel germe mi è sempre rimasto. Addirittura poi a scuola con il professore di musica avevamo costruito addirittura una scaletta di un programma radiofonico, quindi era rimasta questa passione. E poi capita, come spesso purtroppo devo dire, uno fa tanti percorsi formativi, però a volte capita la fortuna di essere al posto giusto nel momento giusto. Io quando feci il servizio civile, parliamo del 96-97, l'avevo fatto nel WWF a Treviso, e il WWF all'epoca aveva una rubrica radiofonica che veniva trasmessa da questi studi. Io ero in contatto, conoscevo, insomma sono andato a proporre proporre, ho cercato di fare un po' da ponte con tra WWF e la radio, che all'epoca si chiamava Radio Vita a Treviso, e mi hanno affidato la conduzione e la realizzazione di questa rubrica quotidiana di 3 minuti di informazione dal mondo del WWF. È durata praticamente per tutto l'anno del servizio civile, quindi è stato anche un impegno continuativo. Finito il servizio civile, è rimasto però il contatto con la radio. Mi avevano proposto di fare altre cose, come volontariato ovviamente, perché all'inizio bisogna sempre partire così. Bisogna fare un po' la gavetta gratis. Poi è capitato che intorno al 99-2000 ci sono stati un po' di cambiamenti di personale qui all'interno, e io ero appunto al posto giusto nel momento giusto, per cui sono subentrato io come persona. Mi hanno assunto prima con un part time, e poi piano piano ho cominciato a lavorare, a condurre programmi, poi a iniziare anche tutto il percorso della parte giornalistica, che è quella, una di quelle che seguo adesso, perché all'inizio parlavi di tutti i ruoli. Sì. Nelle nostre radio piccole molti ruoli coincidono e convivono nella stessa persona, per cui il coordinamento, il notiziario, la conduzione, le telefonate, le mail, insomma la giornata è sempre più di 8 ore, impegnativa anche, molto intensa. E Mirko, in base alla tua esperienza, quali possono essere le conoscenze, le abilità su cui puntare, su cui un giovane che appunto volesse entrare in questo mondo appunto deve un po' focalizzarsi per avere delle chance in più? Allora, 30 anni fa c'erano i nastri, no? Dicevo prima, e bisognava avere proprio moltissima passione. Adesso c'è tantissima tecnologia, abbiamo la radio sul computer, sul telefono, ovunque, ci può portare ovunque con l'applicazione. Quindi bisogna essere molto, molto elastici nel manipolare anche le nuove tecnologie, e molto creativi innanzitutto. Quindi inventare delle cose nuove, saperle manipolare tecnicamente, ma credo che i giovani di oggi siano, noi facciamo magari più fatica, noi ultra quarantenni, ma i giovani di adesso nascono con la tecnologia in mano. Sono sicuramente agevolati. Sono agevolati da questo punto di vista. E quindi pensare a proporre cose nuove che possono essere interessanti. Attenzione. Questo vale per la nostra emittente, ma vale anche per altre, per quelle medio piccole. Attenzione a non cercare subito il consenso e i grandi ascolti. I grandi ascolti li fanno solo le grandi radio, lo fa un certo tipo di programma. Se uno vuole cercare di metterci un po' di contenuto in più, un po' di spessore, diciamo, sappia che non avrà i grandi ascolti. Ma questa è una regola normale anche del mercato. Le cose un po' più impegnative purtroppo hanno un pubblico un po' più basso, ma va bene così. O d'élite, esatto. E Mirko, un'ultima domanda. Prima parlavi appunto di proporsi, puntare sulla creatività, sull'utilizzo delle nuove tecnologie, ma appunto se un ragazzo volesse proporsi, quali canali consiglieresti? Qual è il modo secondo te che può avere maggior successo? Allora, nelle radio attualmente esistenti, quelle che trasmettono in FM, è difficile trovare posto che uno ti dia anche uno spazio per uno stage anche gratuitamente, per una serie di motivi è un po' complicato. Viste le possibilità e la tecnologia, uno può farsi, come una volta bisognava però mettere l'antenna sopra casa per trasmettere, adesso però con la tecnologia uno può trasmettere in tutto il mondo con pochissimi euro a disposizione. Poi si tratta di essere bravi nel divulgare divulgare l'esistenza di questo canale e farla conoscere. Quindi insomma un po' anche di spirito di iniziativa. Moltissimo. Proprio. Benissimo, Mirko, ti ringrazio per essere stato qui con noi a 12 minuti e buon lavoro a Blu Radio Veneto. Torno di là perché poi tocca ancora a noi. 12 minuti. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. A proposito di mondo radiofonico, vi segnalo alcuni siti dove potete trovare una prima mappatura delle radio presenti in Veneto: quotidiani.net, leradio.com ed ecoveneto.it. Darci un occhio può essere utile per avere i primi contatti e quindi cominciare a proporsi, allo stesso tempo farsi anche un'idea di qual è la realtà radiofonica del nostro territorio regionale. Per chi invece è proprio alle prime armi e volesse formarsi in questo settore, vi segnalo il corso di conduzione radiofonica organizzato da okradio.it. La prossima edizione si terrà a Milano a gennaio 2013, del prossimo anno, e per avere maggiori informazioni sul corso e le modalità di partecipazione potete consultare il sito okradio.it. Vi segnalo anche il SEI Institute di Milano, che organizza corsi di livello universitario in audio production e digital filmmaking e corsi certificati di electronic music production, digital DJ, sound design e 3D animation. Per informazioni più dettagliate potete andare sul sito milano.sei.edu. E prima di salutarvi vi do, come al solito, una brevissima anticipazione sulla prossima puntata, che sarà tutta al femminile, ovvero cercheremo di capire se nel mercato del lavoro in questo momento essere uomo o donna fa la differenza. Per oggi è davvero tutto, ci sentiamo la prossima settimana, bye bye! 12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia.